Letture di Radio 24. Mercoledì scorso è andato in scena l'ennesimo sciopero del trasporto pubblico che ancora una volta ha messo in ginocchio la maggior parte delle città italiane. Per l'esattezza, si tratta del 43esimo sciopero dall'inizio dell'anno, ovvero più di uno sciopero ogni due giorni, sabati e domeniche comprese. E molti altri sono previsti nelle prossime settimane, mentre non è difficile immaginare cosa accadrà a Milano, dove l'imminenza dell'Expo spingerà i lavoratori del trasporto pubblico a usare fino all'estremo l'arma del ricatto. È come se esistesse un mondo che continua a vivere con criteri e regole anni 70, scrive Mario Giordano sul Libero, che poi evidenzia come questa anomalia esista solo e soltanto nel settore del trasporto pubblico. C'è una sola cosa che non va in crisi in Italia: lo sciopero degli autoferrotranvieri. Il mondo cambia, le stagioni passano, tutto si trasforma, ma l'autista dell'autobus continua a incrociare le braccia come se nulla fosse. I mezzi pubblici si bloccano, le metropolitane chiudono e noi finiamo sempre così, attaccati al tram, ovviamente fermo. Ho provato a fare un confronto, ho cercato per altri settori, tessile non pervenuto, chimico nemmeno. Per i metalmeccanici, dal 1 gennaio ad oggi, ci sono solo tre aziende che hanno scioperato: la Fenice di Melfi, l'Hangaip di Potenza e la Reiki di Salerno, in tutto quattro scioperi. Il risultato del derby delle braccia incrociate è impressionante. Trasporto locale 43, metalmeccanici 4. Non vi sembra assurdo? Tanto più che il settore metalmeccanico ha subito fortemente l'impatto della crisi economica, al contrario degli autoferrotranvieri, che sono dipendenti pubblici e dunque ipergarantiti. Non hanno il contratto rinnovato da 7 anni, si capisce, ma al contrario di molti altri loro colleghi, se non altro, hanno ancora un contratto, super blindato a spese nostre. E allora viene da chiedersi come mai ormai si scioperi soltanto più nel settore dei servizi pubblici. 2.323 proclamazioni nel 2013 contro le 1.899 del 2010, mentre in tutti gli altri settori industriali quest'ultima è considerata un'arma ormai desueta, inefficace, fuori dal tempo. La risposta purtroppo è semplice e allo stesso tempo amara. Gli autoferrotranvieri possono continuare a scioperare perché, a differenza dei loro colleghi dell'industria, con la loro protesta non danneggiano affatto l'azienda, ma solo i cittadini. E sui cittadini, che sono i più deboli, si può infierire senza pietà. E dunque ecco spiegato l'anacronistico ricorso allo sciopero degli autoferrotranvieri, anche se l'effetto è devastante. È come se esistesse in un mondo fuori dal mondo, che continua a vivere con regole e criteri da anni 70, che non si è adeguato alla realtà, che non si scontra con i problemi di oggi. E i cittadini finiscono per pagare questo ritardo due volte. Da una parte sopportano i disagi, dall'altra saldano il conto di aziende in perdita nonostante le tariffe sempre più salate. È come se in questo mondo parallelo non si fossero accorti che attorno a loro è tutto cambiato, tutto diverso, come se fossero una foto seppiata dentro un universo in Technicolor. E alla fine la constatazione, dopo un altro giorno di caos e città in tilt, non può che essere amara, anzi amarissima. Da sempre i mezzi locali arrivano in ritardo, ma finora era solo un problema di rispetto dell'orario. A questo punto sta diventando anche un problema di rispetto della storia. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'editoriale di Mario Giordano, Uno stop ogni due giorni, I banditi dello sciopero, da Libero del 20 marzo. Letture di Radio 24. In occasione del centenario della nascita di Bohumil Hrabal, la casa editrice EO ripropone tre delle opere più significative dello scrittore ceco. Oltre a Ho servito il re d'Inghilterra e Treni strettamente sorvegliati, la cui trasposizione cinematografica, premio Oscar nel 1968, ha contribuito a far conoscere le sue opere in tutto il mondo, viene ripubblicata anche La cittadina dove il tempo si è fermato. Si tratta di uno dei racconti più divertenti di Hrabal, come testimoniano già le prime pagine, dove il piccolo narratore vuole a tutti i costi farsi tatuare una barchetta sul petto. Il prezzo richiesto dal signor Loisa, il tatuatore, è una bottiglia di rum e per procurarsi i soldi il bambino non esita a ricorrere a metodi poco ortodossi. Il signor parroco Spurni, a cui servivo la Santa Messa, fu il primo a cui volli confidare il mio desiderio di avere una barchetta tatuata sul petto, perché lui pure, a dimostrazione della sua ubbidienza a Dio, si era fatto tagliare i capelli, si era fatto radere un tondo sulla sommità della testa. Un parroco così, mi dissi, sicuramente mi benedirà quando mi inginocchierò davanti a lui con la cotta da chierichetto, giungerò le mani e chinerò il capo e gli dirò della barchetta pura. Ma il signor parroco aveva fretta. Si liberò del piviale. Bevé del vermut. Il signor parroco non beveva altro che vermut. Anche quando andavamo a somministrare l'estrema unzione, nel cestino accanto all'olio santo e alla patena dovevo portare con me una bottiglia di vermut. Quindi il signor parroco se ne andò e io mi tolsi la cotta e, inginocchiato davanti al tabernacolo, guardavo il Cristo dorato che spuntava dei fiori di peonia e di viburno, e all'improvviso mi accorsi che anche lui aveva un cuore tatuato sul petto. Un cuore circondato da una ghirlanda pungente di spine di rose selvatiche. E allora, mentre svuotavo le cassette con le elemosine per la riparazione della chiesa, prima presi 5 corone, poi le restituii, ma poi le presi in prestito definitivamente, con la ferma convinzione che le avrei rimesse a posto. Dissi anche al Cristo dorato in sagrestia: «Sull'anima mia e parola d'onore, le prendo solo in prestito». E le mostrai a Gesù perché vedesse che non stavo prendendo di più. Io ci parlavo spesso con Cristo, perché con Dio non ne avevo il coraggio, soprattutto da quando il contadino Farda, di cui si diceva che per notti intere litigava e gridava contro Dio e Dio contro di lui. Dunque questo contadino trasportava l'ultimo carico di fieno e io stavo proprio tornando da scuola e si avvicinava un temporale. Farda frustava il cavallo per riporre il fieno secco in solaio prima che si mettesse a piovere. Allora sotto il ponte cominciarono a cadere dei goccioloni e poi scoppiò un acquazzone e venne giù il diluvio. E il contadino Farda prendeva manciate di fieno bagnato e le lanciava per aria verso i cieli e gridava a Dio: «To, ingozzati!» E Dio rispose con un lampo che spaccò in due il pioppo sull'argine e i cavalli tremavano e io pure tremavo e i clienti dell'osteria sotto il ponte che guardavano sotto la gronda, caddero in ginocchio. Oggi all'osteria sotto il ponte c'era allegria. «Ma che bel marinaretto!» esclamò il signor Loisa quando fui davanti a lui con la giacca alla marinara e il berretto bianco da marinaio con il doppio nastro nero che dietro scendeva incrociato. Dissi: «Signor Loisa, questi sono per lei da parte mia per un rum grande come si deve». E il signor Loisa mi piazzò il berretto in modo buffo sulle sopracciglia e quando guardai verso l'alto feci gli occhi strabici fissando il bordo del berretto e intanto davo al signor Loisa le 5 corone. «Dove hai preso questi soldi?» disse diffidente il signor Loisa. «Li ho presi in prestito dal signore Iddio», dissi, e annuii e il berretto mi scese sugli occhi. Lo soffiai verso l'alto e l'intera tavola si mise a ridere e il signor Loisa disse: «Allora hai parlato con lui?» E tutti tacquero. «Sì», dico. «Ma me li ha prestati suo figlio, il signore Gesù in persona», dissi, e aggiunsi: «Me li ha prestati perché lei mi tatuasse una bella barchetta, come quella che ha tatuato a quel signore laggiù». «Beh, allora, se te l'ha ordinato il signore Gesù in persona, vorrà dire che lo faremo». Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Bohumil Hrabal, «La cittadina dove il tempo si è fermato», edizioni EO. 160 pagine, 17 euro. Secondo i dati pubblicati nella tabella 2014 della giustizia nell'Unione Europea, la giustizia in Italia è ulteriormente peggiorata, sia per quanto riguarda i tempi record dei processi, sia per la scarsissima percezione che i cittadini hanno dell'indipendenza del proprio sistema giudiziario. Per risolvere una causa civile di prima istanza in un tribunale del Lussemburgo occorrono in media 73 giorni. In Germania 183, in Francia 311, in Grecia 469, in Italia 590, quasi 2 anni. Secondo posto in tutta l'Unione Europea per lentezza della giustizia, un vero carrozzone tricolore delle lumache, che si lascia superare in torpore solo da Malta e dai suoi vertiginosi 685 giorni di attesa. Questo è altro, dice la tabella 2014 della giustizia dell'UE, pubblicata per il secondo anno consecutivo da Viviana Reding, commissaria europea alla giustizia. E quegli stessi numeretti spiegano il perché della risposta data dalla commissaria a chi le chiedeva un giudizio sull'Italia. Siamo preoccupati per tutti quei paesi nei quali non ci sono progressi, ma regressi nel funzionamento della giustizia. Se una nazione si trova in fondo alla lista, siamo seriamente preoccupati perché ciò ha un effetto diretto sull'economia. Se la giustizia non funziona, ciò ha un impatto negativo sugli investimenti. Niente di nuovo sotto il sole. Se oggi occorrono 590 giorni per risolvere una causa italiana di prima istanza, nel 2010 di giorni ce ne volevano 492,9, nel 2006 507,4 e nel 2008 532,9. Nel bel mezzo una girandola di governi e ministri, ma l'Olimpiade della lentezza non ha mai cambiato passo. Né è migliorata la percezione che i cittadini hanno dell'indipendenza del proprio sistema giudiziario. Messi in fila 148 paesi del mondo, i finlandesi collocano il proprio al secondo posto per la fiducia che hanno nei propri giudici, i belgi al 24esimo, i francesi al 31esimo e gli italiani al 70esimo. Può esserci una spiegazione? E poi, nell'Unione Europea vi sono in media 18 giudici per 100.000 abitanti, in Germania 25, in Italia 11 e in Francia pure. Ma in Francia, per sapere chi ha ragione nella lite, basta la metà dei giorni. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Luigi Offeddu, Il carrozzone della giustizia lenta. L'Italia non fa progressi, anzi recede, dal Corriere della Sera del 18 marzo. Dalle manifestazioni francesi contro la nuova legge sulla famiglia a quelle spagnole contro l'aborto. È in atto in tutta Europa una svolta perbenista, scrive Florence Noiville, giornalista di Le Monde. Un nuovo moralismo che si nota anche nelle critiche alle coppie con una grande differenza di età. Un giorno mia figlia, 18 anni, torna da scuola e annuncia che una compagna di classe ha una storia con il suo professore di filosofia, che di anni ne ha 49. Le altre mie figlie, in tutto ne ho tre, saltano su ed esternano il loro ribrezzo. «Che cosa immonda, mamma, ma è disgustoso!» La loro condanna è stata talmente violenta da spingermi a riflettere su questo tema e in seguito a scrivere un romanzo. Mi sono domandata, in un mondo in cui un numero considerevole di uomini maturi, nella maggior parte dei casi famosi, si rifanno una vita al fianco di donne di almeno 30 anni più giovani, senza che nessuno ci trovi qualcosa da ridire, perché mai l'amore tra due esseri umani, tutt'altro che celebri, riesce a provocare una simile reazione di disgusto tra dei liceali? Che sia la spia del fatto che un desiderio femminile è fuori dagli schemi canonici, destabilizzi e dia fastidio? Confrontandomi sul tema con colleghi e amici, sono giunta alla conclusione che l'aria che si respira in Europa di questi tempi ha perso da tempo la sua freschezza. Verrebbe voglia di spalancare la finestra per liberare l'atmosfera da questa zavorra di convenzioni ammuffite e morale retrograda. Non mi stupisce che alcuni oggi vedano nel testo di Nabokov un apologo alla pedofilia. Riuscirebbe a trovare un editore nel 2014? Non ne sono poi tanto sicura. Avete ascoltato la lettura di alcuni stralci dell'articolo di Florence Noiville, Quanta voglia di moralismo c'è in Europa, dal settimanale di La Repubblica dell'8 marzo. In alcune sentenze recenti riguardanti l'utilizzo della rete, la Corte di Giustizia ha inteso ampliare la diffusione gratuita di contenuti in Internet. Ma è necessario trovare un bilanciamento degli interessi, scrive Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Autorità per la Concorrenza e del Mercato, in un articolo pubblicato sul mensile Formiche. Quando si scarica qualcosa, bisogna pensare che si è potuto godere di quel contenuto perché altri lo hanno prodotto e i costi di un diritto vanno remunerati o ripartiti, altrimenti qualunque tipo di iniziativa sarà destinata alla sconfitta. La nostra è l'età dei diritti e della loro espansione sconfinata. accesso gratuito alla rete e alla banda larga. Ma i diritti hanno un costo e se non si rivaluta questo principio, non sarà possibile affrontare alcuni nodi cruciali della contemporaneità. Se si accede a internet e si scarica del materiale, non si paga, ma bisogna tenere presente che si è potuto godere di quel contenuto perché altri lo hanno prodotto, sopportando i costi e producendo un valore. Va trovato un bilanciamento degli interessi, caratteristica in fondo della società democratica in cui viviamo. È necessario partire dal principio che i costi di un diritto vanno remunerati o ripartiti, perché il diritto è anche un grande meccanismo di redistribuzione sociale dei costi, altrimenti qualsiasi tipo di iniziativa sarà destinata alla sconfitta. Quanto all'attività dell'antitrust italiana, il caso pilota promosso dal presidente Catricalà nel procedimento istruttorio nei confronti di Google, sollecitato dall'Associazione degli Editori e concluso proprio con impegni, ha costituito un'importante anticipazione rispetto all'evoluzione successiva. Nel 2010 e più di recente nel 2013 l'autorità è intervenuta con segnalazioni al Parlamento, chiedendo con fermezza una regolazione del diritto d'autore online. A tal riguardo, i modelli da prendere in considerazione sono quello francese e quello tedesco. Il primo, scaturito con l'accordo tra Google e gli editori, non risolve il problema, ma sembra piuttosto un modo per sovvenzionare un'uscita dignitosa da un settore. Gli accordi in cui tutti si siedono attorno a un tavolo possono frenare la concorrenza. Il secondo ha comportato un'eteroregolazione con il legislatore, intervenuto prevedendo forme di tutela per chi produce contenuti e vuole essere remunerato. Sotto questo profilo, pur spendendo argomentazioni a favore di una disciplina della tutela del diritto d'autore e di una remunerazione di chi produce i contenuti editoriali, bisogna però stare in guardia da meccanismi troppo rigidi che potrebbero impedire o pregiudicare valori fondamentali, quali la diffusione delle informazioni su internet, la possibilità che internet sia un forum di discussione libero, non pregiudicato e non sottoposto a particolari restrizioni. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Giovanni Pitruzzella, Diritti nella rete, la sfida è anche culturale, dal numero di marzo del mensile Formiche.